Giordano Bruno e Solio a Roma, Campo dei Fiori, 1617 febbraio, neoplatonico, arti mnemoniche, influssi ebraici, cabalistici, eretico, eretico. Thank you.